tanto per parlare ti dirò una cosa. Io voglio vivere. Non so come farò, ma troverò il modo per uscire di qui. Beh, allora prenota un posto anche per me. Sta tranquillo, già fatto. Zero paure. Zero paure. Zero paure. Guardare lontano in alto e zero paure. E zero paure. E zero paure. E zero paure. Anche quando sembra di impazzire, fuggire coi pensieri e non tornare. Zero paure e il vento continua a soffiare. Si sente dentro a tempo una danza che non puoi fermare. Zero paure e il cuore vuole di nuovo tornare a brillare. Uccidere dentro il tempo del soffrire. Zero paure e di averti accanto. Ora in stallo, dopo anni di letargo, orco cristallo, orso cristallo. Zero paure e tra le tue labbra morire e uccidere nel cuore la nera solitudine. Zero paure e ora saper volare alto, giorno per giorno, in un nuovo incanto. Zero paure di faticare del lavoro, avere un tetto dove crescere un futuro insieme a te. Zero paure o almeno provarci. Zero paure, alzarsi e lottare, provarci. Zero paure per poter ancora stonare. Zero paure, spiccare il volo e nel sole come Icaro volare. Zero paure, zero paure, zero paure. Guardare lontano in alto e zero paure, zero paure, zero paure, zero paure. Guardare in alto e zero paura.